Era una bella giornata di luglio, camminavo lungo il parco, quando ad un tratto incontro mio zio, che non vedevo da qualche tempo. Avevo udito che aveva avuto un infarto serio e nonostante mi avesse più volte detto di essere ateo, desideravo parlargli della bella notizia di Gesù che salva i peccatori. Quando avrei avuto un'altra occasione di parlargli? E se fosse stata l'ultima volta? Presi coraggio. Ho sentito che sei stato poco bene, e ogni volta che io sto poco bene, penso sempre all'aldilà, dove andrò meno. Io non ci credo, tutte storie, replicò subito mio zio senza esitazione. Meno, e se non fossero storie? Io non ci credo, rispose come al solito mio zio. Poiché non possiamo provare nessuno dei due chi ha ragione, ammettiamo tutte e due le possibilità. Se non è vero che esiste l'aldilà, io sarò deluso per 70-80 anni, non è vero? Meno, e sì, prendi una bella fregatura, rispose tutto soddisfatto mio zio. Però, se è vero che esiste una condanna e una salvezza eterna, tu rimarrai deluso, anzi, fregato, per l'eternità. Non ti sembra? Allora cosa cambia? Chiede un po' perplesso mio zio. Cambia molto, direi. Vuol dire che quello che Gesù ha detto è vero? Non credo in Gesù, disse con un tono secco mio zio. Beh, lo dici tanto per dire perché almeno come uomo vissuto nella storia in Gesù ci credi, vero? Non ci credo. Come puoi dire che non ci credi quando hai vissuto al tempo di Pilato, di Cesare, che sono accettati storicamente da tutti? Io non l'ho visto. Certo, anche Garibaldi non l'hai visto, ma credi che sia esistito. Quella di Gesù è una storia inventata, rispose ostinatamente mio zio. Questo è impossibile, perché quando è risorto i primi a non crederci sono stati i discepoli. Allora cosa cambia? Cambia che Gesù allora è esistito ed è vero quello che ha detto. Quindi nell'aldilà ci sarà una punizione eterna per chi non crede in Gesù. Non è vero niente, continuò a ripetere con fermezza mio zio. Sapevo che la conversazione con mio zio sarebbe stata una vera battaglia di parole, ma ero deciso di andare fino in fondo. Così continuai. Ammettiamo che non ci sia niente, ma tu non puoi rimanere indifferente nel sentire una notizia del genere. Ma io non ci credo. Non puoi parlare così. Devi verificare se esiste l'inferno oppure no. Perché, se non ci credo? Lo so. Ma se ti dico che ci è una bomba in casa tua, puoi rimanere indifferente. Perfino le compagnie aeree di fronte alla notizia di una bomba nell'aereo fanno perlustrare tutto l'apparecchio. Una notizia del genere non li lascia indifferenti. Io ti dico che ci è l'inferno e a te sta verificare se è vero oppure no. Ma, rispose mio zio facendo una riflessione, è giusto che Dio mandi all'inferno la gente? Non è giusto. Ma Dio non manda all'inferno nessuno. Sono gli increduli che ci vogliono andare. Ma Dio è un mostro. Perché? Risposi. Lascia che la gente vada all'inferno. E, giusto secondo te? Chiese mio zio, orgoglioso di questa domanda. Meno, a te non piace essere libero e fare quello che ti piace? Risposi senza esitazione. Altro che, ribatté tutto soddisfatto mio zio. Allora, come fa Dio a lasciare l'uomo libero e nello stesso tempo di impedirgli di andare all'inferno? Pensa a quello che vuoi tanto, io non ci credo, rispose mio zio come se fosse un disco. Va bene. Però, anche se non credi, le cose non cambiano. Se il Presidente della Repubblica è morto e tu non ci credi, pensi che la tua incredulità cambi la realtà? Coleri sicrenti, no. Che pancretus lentige pitere pitere idu, domasi, colete hi pitere pitritere idu, cantamasi, allora perché ti ostini tanto a dire che non credi a niente? Chi ci rimette sei tu. Dio non ha bisogno di te, sei tu che hai bisogno di lui. Ti rendi conto? Va bene, pensa quello che vuoi, ma io non ci credo. D'accordo. Puoi decidere di non credere. Ma non puoi decidere la conseguenza della tua scelta. Un giorno ti troverai all'inferno perché lo hai voluto tu. Non mi interessa. Io a queste cose non ci penso. Detto questo, se ne andò. Nel mio cuore sorse una preghiera: grazie, mio Dio, che sei misericordioso anche con gli ingrati. Ma non riterrai innocente il colpevole. Questa conversazione con mio zio è una delle tante conversazioni che si fanno quando si presenta l'Evangelo. Il Signore Gesù ha ordinato di predicare a coloro che avevano posto fede in Lui. L'Evangelo a tutto il mondo. Egli sapeva che non tutti lo avrebbero accettato, ma lo scopo di Dio è soprattutto che le persone abbiano la possibilità di ricevere la vita eterna, affinché, come sta scritto, ogni bocca sia messa in silenzio. Ecco nel suo contesto questa sentenza: non ci è nessun giusto, neppure uno. Non ci è nessuno che capisca, non ci è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non ci è nessuno che pratichi la bontà, non neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra ci è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non ci è timor di Dio davanti ai loro occhi. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Romani 3.1019. A molti sfugge il principio di giustizia di Dio. Perché come ogni giudice, Gesù Cristo non incolpa nessuno se questo non è colpevole. Ma poiché vi è la legge di Dio, se vi è una legge, vi è pure una trasgressione. Perciò tutti coloro che non ubbidiscono alla legge di Dio sono meritevoli di condanna. E pensare che Dio ha fatto tutto il possibile perché questo non avvenga. Pochi hanno compreso il valore della morte di Gesù sulla croce. Con la sua morte, Gesù ha riconciliato l'uomo a Dio, il che vuol dire che per quanto riguarda il Dio tre volte giusto e santo, il problema del peccato non esiste più. Gesù, morendo in croce, ha soddisfatto pienamente la giustizia di Dio. Perciò l'uomo non ha nessun debito nei confronti di Dio. Ma per chi non accetta il sacrifico espiatorio e sostitutorio di Cristo, la sua opera non ha un valore effettivo. E perciò tutti i peccati commessi gli sono imputati. Per l'incredulo, il rifiuto di credere all'opera di Cristo rende inefficace il perdono e la giustificazione di Dio per lui. Mio zio ora non è più qui tra di noi. Si trova alla presenza di Dio per essere giudicato. Non è un'opinione mia, lo dice la Scrittura. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. L'incredulità di mio zio non gli impedirà di essere giudicato da Gesù Cristo. Anche questo aspetto pochi lo hanno compreso. Secondo la Scrittura, chi giudicherà gli uomini non è tanto la persona del Padre, ma Gesù Cristo. Lo ha detto Gesù stesso. Itur alacie. Come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Inoltre, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Giovanni 5.2123. Se il giudizio di condanna sugli uomini fosse dato dalla persona del Padre, qualcuno potrebbe anche lamentarsi, o avrebbe da ridire, perché il Padre non ha conosciuto le miserie umane, le tentazioni, tutti i limiti umani, mentre Gesù Cristo si è fatto uomo, è stato sottoposto alle stesse passioni degli uomini, ma ne è uscito vincitore. Come uomo Gesù ha dimostrato che era possibile osservare la legge divina, che era possibile resistere alle tentazioni del diavolo e perciò, avendo vinto, ha tutti i diritti di emanare un giudizio di condanna sugli uomini e, come è scritto, ogni malvagio ha la bocca chiusa. Salmo 107,42. Infine, l'ostinatezza di non voler ammettere le evidenze non serve a nulla, proprio nulla. Se io nego e continuo a negare l'esistenza del sole solo perché sono cieco, ciò non impedirà al sole di brillare. Se sono cieco, ho tutti i diritti di pensare che non esista il sole, ma non ho più nessun diritto di negarlo quando sento il suo calore e il suo benessere. Gli effetti della realtà devono cambiare le mie opinioni, diversamente non sono più in armonia con la vita. così è di Gesù Cristo. Sul fatto che sia esistito non vi sono dubbi perché molte persone hanno testimoniato della sua esistenza, persone tra l'altro incredule, e che non avevano nessun interesse a parlare di lui. Infine, gli effetti di ciò che Gesù ha detto e di quello che è sono presenti in tutto il mondo. Milioni di persone possono testimoniare con la loro vita cambiata in meglio. Ubriaconi, dissoluti, malviventi. Sono diventati un esempio di virtù per la società. E senza andare lontano, io sono uno dei tanti miracoli che Dio compie in questo mondo. Il miracolo che testimonio della mia fede in Cristo con le certezze di Dio. Mio zio, che mi ha conosciuto fin da piccolo, ha visto questo miracolo, il miracolo di un uomo complessato, debole, insicuro, senza certezze e mete, trasformato in un testimone di Gesù Cristo. Io ho amato mio zio dell'amore di Dio, nel testimoniare di Cristo quale Salvatore e Signore. Quell'amore di Dio che lo ha accompagnato fino alla tomba. Non ho potuto fare di più. Come l'amore di Dio, che dopo la morte non ha più il potere di salvare l'incredulo. Ottobre 2005, Ellero,